Benvenuta Gabriela Lenori. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Che è la regista dello spettacolo Ferocia. Fateci smettere questo spettacolo di Betta Cianchini che sarà in scena al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle. Ci racconti un po', di questo lavoro? Allora, questo lavoro, nasce dalla penna felicissima di Betta Cianchini. È autrice eccelsa secondo me perché scrive in maniera semplice, dove la semplicità è un bene, non è un valore riduttivo, no? Noi ora con la parola semplice pensiamo che sia una cosa modesta, no? La cosa semplice, invece la semplicità è togliere tutti gli orpelli, tutte le cose, per cui arrivare dritta al cuore, alla mente, a dove c'è da andare. Lei ha fatto questa raccolta di racconti, è andata, ha incontrato tante donne nel corso del tempo che le hanno raccontato di violenze subite, si è informata di violenze purtroppo finite molto male e in base a tutte queste storie ha tirato fuori dei racconti. Lei ne ha tirati fuori 16 e da questi 16 racconti abbiamo lavorato insieme io e lei per, cioè, trovare questa drammaturgia perché erano tutti monologhi, no? Sì. Ne abbiamo scelti tre di questi monologhi e li abbiamo intersecati, diciamo, per cui non sono tre monologhi staccati. Una ne dice uno, una ne dice un'altra, ma sono intersecati perché poi queste tre vicende di tre donne molto diverse per estrazione sociale, per età, no, per tutto, si scopre che cioè, la linea e il filo conduttore è sempre lo stesso, cioè che le conduce poi alla fine vera e propria, no? Sì. E le donne sono una giovane sposina, una 32enne, giovane sposina con questo uomo, un libero professionista, per cui una situazione anche familiare ottima, una professionista, una designer d'interno, architetto, sposata tardi, per cui cioè un matrimonio fatto tardi, per cui con l'uomo della sua vita e scoprirà che è un violento. E una casalinga, diciamo, di non media estrazione, con la violenza e questa con un bambino, per cui con la violenza anche sul bambino in qualche maniera. Insomma, sono storie che purtroppo tragicamente tutti i giorni, adesso insomma capita che ci sentiamo oggi, no? Che il giorno dopo questa vicenda terribile Cisterna di Latina, che ogni volta che sento una notizia del genere è come dire, come si fa a fermare tutto questo? Ma soprattutto non scoprire, cioè ormai passano queste notizie così fluidamente che non ci si ferma neanche. Ecco, lo scandalo che è successo ieri a Cisterna di Latina, no? Che un marito tenta di uccidere la moglie, ancora non è morta, ma forse chi lo sa, uccide le sue figlie. Un carabiniere dell'arma, armato, questa donna aveva più di una volta segnalato, aveva parlato col comandante dei carabinieri, col comandante di suo marito, aveva espresso tutta una serie di cose e non si lascia fare niente e non c'è indignazione. Quando invece ci si indigna su, no? Cioè, la violenza che è successa a Macerata, io essendo di queste parti, no? Sì. La violenza che è successa a Macerata, scatenata dal fatto che c'era di mezzo un uomo di colore, non è la stessa che suscita un carabiniere che uccide la moglie e le figlie. Allora, io non voglio che ci sia violenza in nessuno dei casi, ma ci deve essere lo sgomento, l'orrore da parte di tutti. Invece Sì. alcune notizie passano assolutamente sotto. Sì, sottobanco, no? Così, e poi ci si abitua ormai così all'orrore. E le donne uccise ormai sono quotidianamente uccise, ma violate, massacrate, cioè ce ne sono in una maniera incredibile. Questo spettacolo ha la valenza, innanzitutto ha la forma teatrale, no? Il racconto teatrale. Il racconto teatrale ha questa cosa che non è cronaca. Non è il telegiornale, non è il dibattimento, no, la conferenza sua, la cosa. Cioè uno va lì e teatralmente dice determinate cose, per cui è un po' come se si rietirasse anche la tragedia greca, no? Tanto gli argomenti sono sempre quelli, eh? Questa è l'umana. È il sì, perché La tragedia, uno dice, vabbè, quella de... no, è uguale, la tragedia noi la reiteriamo in secola secolorum. No, la cosa è che però questo linguaggio che in certi momenti ti fa distaccare, ma in certi momenti invece ti porta dentro, perché il linguaggio teatrale ti fa riconoscere sempre, no? La magia del teatro qual è? Quella che uno sta ad ascoltare un racconto in cui comunque ci si riconosce. E questa è la differenza tra il teatro e la televisione, non so, e il telegiornale, se no sarebbe la stessa cosa, no? E la cosa che abbiamo notato, oltre che per, vabbè, gli adulti che quando finisce lo spettacolo restano sgomenti, cioè non parte neanche l'applauso perché c'è proprio un pugno allo stomaco, no? Ma quello non è il pugno allo stomaco voluto, è quello che arriva e che dici ma che cavolo sta succedendo, no? Un attimo, per cui. Ma invece la cosa che ci ha confermato che quello che stiamo facendo è giustissimo e dobbiamo continuare a farlo è il responso dei ragazzi nelle scuole. È una cosa inenarrabile, commovente, perché i ragazzi, prima di tutto, dopo le prime tre battute, si zittiscono completamente e cominciano a seguire, anche perché è bello l'intreccio delle tre vicende, per cui finisce una, comincia un'altra, tu vuoi sempre sapere cosa sta succedendo all'altra, per cui anche questo gioco diventa interessante, ma è interessante per seguire queste vicende. E alla fine, all'ultima battuta, parte questo applauso che è da parte dei ragazzi delle scuole, credimi, perché insomma, avendo esperienza, cioè loro non hanno questa abitudine, no? All'applauso lo fanno, a volte lo fanno per far caciara, a volte no, cioè così. Ma parte un applauso liberatorio, ma liberatorio di, ecco, il ringraziamento parte. Io era da tempo che non sentivo più l'applauso di ringraziamento. E questo ti fa capire che stiamo andando sulla strada giusta per parlarne, perché poi noi a fine spettacolo con le scuole facciamo anche, è brutto chiamarlo dibattito, facciamo anche un incontro con i ragazzi, parliamo, per esempio siamo state ad Ostia la settimana scorsa con queste scuole fantastiche, cioè alla fine cioè i ragazzi e ragazze, maschi e femmine, questo è meraviglioso. Dicevano anche delle loro esperienze, una ragazza ha raccontato davanti a tutti, a una platea, no, di 300 ragazzi, ha raccontato delle cose sue con il rispetto estremo da parte di tutti, insomma, è la strada giusta per parlare, per dire queste cose, secondo me, cioè, nel senso, resterà più impresso a loro questo spettacolo che 10 telegiornali con le notizie di questo tipo. Questo non ho dubbi. E allora intanto parliamone. Perché sta succedendo questo? Perché non si ferma? Perché non si riesce a fermarlo? Perché le forze dell'ordine, cioè chi per loro, una legge, qualcosa, non riesce ad anticipare? Perché ormai più delle volte la donna in qualche maniera lo fa capire, anche quando non ha coraggio di andare a denunciare esattamente, però in qualche maniera aiuto lo chiede, un vicino di casa le sente le cose che succedono in quella casa, uno le vede, questa omertà su questa cosa, cioè nel 2018 è drammatica, perché prima si reputava tutto all'ignoranza, no? Erano gli strati sociali più poveri, le zone più depresse d'Italia, no? Uno pensava queste cose c'erano l'estremo sud, no? Quelli sono tutti terroni, cioè ignoranti, il padre padrone, no? Le cose così. No, qui l'aumento, a parte l'aumento di queste vicende al nord, che è esponenziale, ma nelle situazioni proprio di alta borghesia ormai, cioè proprio di situazioni di famiglie per bene, quelle chiamate per bene. E questo bisogna un attimo, cioè c'è un allarme, io non so come chiamarlo, antropologico, come possiamo chiamarlo? Non so come chiamarlo, perché è un allarme vero, però io appunto attorno non sento da parte della politica, da parte, cioè, delle istituzioni, non sento una presa di posizione forte su questo argomento e non capisco perché. Come dicevi tu, i segnali quasi sempre ci sono prima rispetto a quanto avverrà drammaticamente dopo, e rispetto invece agli esempi che stavi facendo all'inizio, penso che quando non c'è di mezzo il razzismo, scatta sempre quell'attenuante che tira in ballo il momento di follia. Esatto. Esatto, sì, perché un negro la follia non ce la può avere, ma un bianco in quel momento, poi questo pure Carabinieri, parlando dell'episodio ora, questo recentissimo che ce l'ho, però capito, no, è questo, sì, cioè ci sono delle scuse, allora sull'orrore, ecco, il fatto che l'orrore ci sia, no, sai come si faceva sulla lavagna, buoni e cattivi, no? Cioè c'è l'orrore buono e l'orrore cattivo, questo è terrificante, cioè è terrificante, non... Io non so, ci si sta abituando veramente a tante di quelle cose, a quelle grandissime, no? E a queste quotidiane, perché questo fa parte di un quotidiano, no? Cioè quando una donna, anche il fatto per esempio delle forze dell'ordine che devono avere la denuncia e poi c'è la cosa di flagranza di reato. Scusate, ma se arriva una donna pestata, con l'occhio gonfio, la mascella sfondata, cioè che flagranza di reato ci deve essere? Cioè, capite che è una legge fatta apposta per non cioè, no, prendere chi è logico che è assurdo, la donna va dopo essere massacrata, non può essere, cioè, andare mentre la sta massacrando. Sì, sì, E sì. questo è più a volte all'interno della famiglia, no? Anche qui nell'episodio della casalinga, diciamo, dello spettacolo di Ferocia, la madre di lei dice no, no, ma che dici? Zitta, zitta, zitta, no? Cioè, come, non si deve sapere, no? Cioè, è una vergogna, no? Far sapere determinate cose. Poi l'uomo, sai, è così, cioè anche questo, no? Sì, è così, alza un attimo la mano, ma perché ci tiene a te, perché... Sì. E uno entra in un meccanismo e la cosa, cioè il 95% delle donne che Betta ha incontrato, ha intervistato, diciamo, cioè, dicono che è colpa loro. Arrivano a dire che è Sì, colpa sì, loro. sì, sì. Cede perché è colpa loro. Per cui, cioè, entrano in un meccanismo perché non sentono aiuto da parte di nessuno, per cui si isolano. L'uomo riesce a isolarle perché questi casi poi riescono, no? Ci sono anche quelli che cominciano a dire, sai, mia moglie ultimamente è un po' strana, cioè ha tutte manie, cioè uno, e poi questa cosa ancestrale, il discorso uomo-donna, e si è alzato le mani, si vede che qualcosa ha fatto. Allora, al di là del fatto che io posso aver fatto qualsiasi cosa, posso averti tradito, posso aver fatto, tu le mani non le alzi, per cui partiamo anche dal concetto che qualcosa ha fatto e non si alzano mani, ma non c'è, no, ma è proprio, cioè, si è, ecco, questa è una mentalità barbara, no? Sì, Barbara proprio, insomma, medievale, e sì, sì. non è passata, questa non passa, anzi, tra i giovani c'è, sta ritornando questa cosa, sta ritornando i ragazzi con le ragazze. Hanno questa gelosia possessiva, no? Perché è un discorso di possesso, no? Di, sì, proprio di... non sono essere, ma è possesso, sono delle turbe, poi possono venire dalla famiglia stessa, possono... però per esempio c'è anche questa cosa fantastica in mezzo a tutto questo mare di tragedia, nella presa di coscienza di alcuni uomini, no, c'è questa associazione per uomini maltrattanti, no? Che si è creata ultimamente, cioè cercata anche da uomini che sentono, certo sono casi, sono quelli illuminati, però che sentono che ne so, in una discussione una cosa gli viene voglia di battere un pugno contro la porta, dare un calcio alla sedia, queste cose, lì si spaventano e cominciano a dire c'è qualcosa che non va, no? Cioè, anche questo, non è l'ira, no? Cioè, uno può alzare la voce eventualmente, ma quando comincia appunto anche a sbattere le cose, a lanciare le cose, c'è qualcosa che poi ti porta a un peggioramento. E ci sono uomini che chiedono aiuto, che dicono sta succedendo qualcosa di strano, cioè io cioè, mi viene voglia di mettere le mani al collo alla mia donna, allora do un pugno alla porta, do un pugno... Certo, sono pochi, però intanto è nata anche una cosa che non era prevista assolutamente. Sì. E poi anche il fatto che questi giovani ragazzi che vengono a vedere lo spettacolo, ora dico questo spettacolo, alcuni restano sconvolti perché appunto i telegiornali, le notizie non restituiscono non restituiscono il sentimento, la cronaca è piatta, è cronaca appunto, per cui se ti dico dell'ultimo modello della Fiat ed è morta ammazzata, il tono è lo stesso, non c'è un tono diverso, no? Per cui ti arriva tutto uguale. La cosa è che questi ragazzi, questo spettacolo, mi è capitato più di uno, così che sono avvicinati e hanno detto è terribile, noi dobbiamo parlarne tra di noi ragazzi. Sì. Questo pure è un'altra cosa, no? Cioè, non lo so, io ripeto Federico, sto dicendo anche, ti ho inondato di parole a vanvera perché non capisco come si possa fare per fermare questa insensatezza, Sì. perché è totalmente insensata questo che sta Sì, succedendo. sì, sì. Gabriella, questo spettacolo lo state portando in giro per l'Italia da un po' di tempo. A questo punto ti chiedo tutti i riferimenti internet per seguirlo. Allora, adesso mi prendi un attimo alla sprovvista perché non so. Vabbè, però basta cercare allora a questo punto su un motore di ricerca Ferocia, Fateci smettere questo spettacolo di Betta Cianchini per la regia di Esattamente, Gabriella. Ribetta Cianchini, sì, trovate Ferocia, c'è cioè la pagina proprio Ferocia, per cui Ok. trovate tutto lì, sì. Per la regia di Gabriella È Eleonori. un po' complicato, è un po' troppo scioglilingua il mio nome. Ricordiamo il prossimo appuntamento al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle, provincia di Ancona, 7 e 8 marzo. Gabriella, un abbraccio, a risentirci presto. A presto a te, grazie, grazie. Ciao.